femminismo. Frequenze sui generis. E ciao a tutte e tutti e ben ritrovati a Frequenze sui Generis. Questa è la nostra seconda puntata, siamo un po' meno emozionate forse della scorsa volta. Un pochino meno, diciamo un passo alla volta, pian piano ci stiamo avvicinando a quella serenità incredibile che raggiungeremo nel 2025, credo. Sì, ma forse. Comunque, piano piano. Oggi in studio siamo soltanto in due, io che sono Viviana e Anna. Sì, buonasera a tutti, buongiorno in realtà, visto che sono le 2:30 del pomeriggio. E oggi parliamo di un tema molto interessante che penso interesserà molte e molti di voi, il body shaming. Per iniziare vorremmo chiarirci le idee su che cos'è il body shaming e per farlo abbiamo deciso di prendere il punto di vista di un adolescente. In realtà l'adolescente in questione, Anna, è mio cugino, Piero, 17 anni, e ho scelto di intervistarlo perché la scorsa estate mi ha detto che si interessa attivamente di questioni di genere e femminismo. Puoi immaginare che mi sono commossa a sentire queste parole e quindi sentiamo chi ha da dirci sul body shaming. Che cos'è il body shaming? Allora, con il termine body shaming si intendono tutti quegli insulti o quei pregiudizi nei confronti di una persona in base unicamente a come appare. Questo è molto diffuso soprattutto nelle ragazze in età adolescenziale, ma è comune anche nei ragazzi. Molte persone credono che si possa fare body shaming unicamente insultando delle persone in sovrappeso, tuttavia non è esattamente così, perché è body shaming anche insultare delle persone sottopeso o che soffrono di acne o che indossano molti piercing o tatuaggi e che quindi non rispettano i canoni tradizionali che ci vengono imposti. Hai mai vissuto o assistito a episodi di body shaming? Purtroppo sì, mi è capitato un'infinità di volte di assistere a episodi di body shaming, questo soprattutto nelle scuole. Purtroppo il body shaming non viene fatto unicamente da ragazzi, spesso viene fatto anche da alcuni docenti che magari in quel momento non si rendono nemmeno conto di ciò che stanno causando effettivamente all'interno di un adolescente che sta acquisendo, che deve acquisire fiducia nel proprio corpo. Personalmente io non ho mai subito episodi di body shaming, ma un'amica che per anni è stata insultata solamente a causa del suo corpo, e questi episodi non si sono solamente conclusi nell'insulto, ma sono sfociati in veri e propri atti di bullismo che l'hanno portata a soffrire di attacchi di panico, e per cui lei non è uscita di casa per anni solamente per paura di essere giudicata, per paura di essere insultata, per paura di essere picchiata, per paura di avere attacchi di panico in pubblico. Tutto questo solamente a causa del suo corpo. Pensi che il body shaming riguardi e si verifichi soprattutto fra adolescenti? Allora, il body shaming è un fenomeno che potenzialmente potrebbe coinvolgere chiunque. Non c'entra quindi l'età o il sesso, c'entra unicamente la cultura. Tuttavia noi non possiamo ignorare il fatto che sia molto più comune soprattutto tra gli adolescenti, in particolare nelle ragazze. Questo perché durante l'adolescenza i nostri corpi si iniziano a sviluppare in modi differenti, quindi noi ci iniziamo a guardare allo specchio e ci confrontiamo con i nostri coetanei. Se poi aggiungiamo il fatto di essere inseriti in dei tessuti sociali così complicati come ad esempio quello scolastico oppure quello sportivo, ma anche solamente quello familiare o quello amichevole, possiamo capire come sia molto più comune il fatto di incontrare delle persone che ti giudichino unicamente in base al corpo piuttosto che alla tua personalità, solamente perché non rispetti i canoni che ti vengono imposti e gli unici esempi di bellezza che vengono rappresentati dai media. E rientriamo quindi in diretta dopo aver sentito le parole di Piero, 17 anni, a proposito del body shaming. È il cugino di Vivi, questo è vero, ma primo io vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che noi vi abbiamo invitato a scriverci sulla pagina Facebook che si chiama Frequenze sui Generis, è facile come programma, quindi potete anche voi inviarci audio su cos'è per voi il femminismo, cos'è per voi il body shaming, se volete commentare questa puntata. Insomma, non è che sia un favoritismo sentire il cugino di Vivi, ma intanto ci ha dimostrato che potrebbe condurlo lui questo programma. Ah sì, che tra l'altro è molto più sciolto di noi, cioè noi parlavamo delle nostre preoccupazioni, ecco, lui tranquillissimo proprio, un'analisi psicologica. Beh, comunque, ora che Vivi si è ripresa dall'emozione, io anche, passiamo a presentare l'artista di oggi. Vivi, dici chi è? E anche per questa puntata l'artista è stata scelta da Giulia e continuiamo a parlare di rock, e questa settimana lo facciamo con un gruppo americano che inizia a cavalcare l'onda del successo a partire dagli anni 90 fino ancora ad oggi con gli ultimi album, i Garbage. Elemento assolutamente di spicco della band, la figura di Shirley Manson, frontwoman del gruppo. Artista eclettica e complessa, ibrida e di una bellezza androgina e trasgressiva, assolutamente magnetica e sempre in trasformazione, Shirley incarna perfettamente la proposta musicale elettronica, incalzante, rock del gruppo. Una donna che dopo più di 20 anni di carriera continua a lanciare messaggi positivi e necessari. Istigare alla sovversione, esercitarsi alla sfrontatezza. E dopo questa presentazione partiamo col primo brano, che si chiama Anna I Think I'm Paranoid, titolo emblematico. Ed eccoci ritornata in studio. Adesso ascolteremo l'intervista a Eretica. Per chi non la conosce, Eretica è la blogger di Al di là del buco, nonché della pagina Facebook Abbatto i muri. Recentemente si è occupata di una campagna Facebook proprio sul body shaming. La sua pagina Facebook, pensate, ha più di 160.000 follower e ha dato spazio alle persone per raccontarsi e per raccontare il fenomeno del body shaming. Anna l'ha intervistata per noi, ascoltiamo la sua intervista. Tu quest'estate avevi fatto tramite la tua pagina Facebook Abbatto i muri una campagna proprio contro il body shaming, raccogliendo foto e testimonianze di chiunque volesse partecipare. Com'è andata? È andata bene, nel senso che ci sono state un sacco di testimonianze, tantissime donne che hanno mandato foto raccontando quello che pensavano di sé, e questo prescindeva dal fatto che queste potessero essere normopeso, sovrappeso o sottopeso. Ciascuna ha parlato delle proprie cicatrici, dei parti, quindi dei figli che hanno causato ferite in gravidanza, delle sbagliature, della cellulite, di tutto quello che in genere, insomma, è composto appunto ad essere al centro dell'attenzione da parte di gente cattiva che ti sfotte. Le foto appunto sono state tantissime, i racconti sono stati tantissimi, ed è una campagna che è servita molto a far crescere tutti e tutte. Ecco, però nel corso di questa campagna c'è stato poi un episodio particolare nel quale una ragazza ha raccontato la sua storia allegando la sua foto, che è poi stata giudicata la foto di un corpo perfetto da alcuni che hanno a loro volta poi riapplicato il body shaming su di lei, diciamo. Puoi spiegarmi meglio cos'è successo? Sì, quello che è successo allora è che ciascuno ha mandato la propria foto. Evidentemente il fatto di sentirsi in difetto, di sentirsi sbagliato, non riguardava la realtà dei fatti o comunque sia quel che guardi allo specchio. Ciascuna ha evidenziato dei disagi che riguardavano il corpo, come ci si sentiva, come si sentivano con il proprio corpo. E in un caso, anche più di uno devo dire, qualcuno ha mandato foto in cui quel corpo poteva apparire perfetto agli occhi degli altri. In particolare c'è una ragazza che ha mandato una foto, era in bikini, bellissima, lei ha raccontato una storia di grandi disagi, di grande conflitto con se stessa, di un approccio delicato e particolare con il proprio corpo, e si è scatenato un pandemonio tra i commenti, soprattutto da parte di donne che hanno cominciato a fare body shaming su di lei, dicendo che era troppo bella per partecipare a questa campagna e che la campagna aveva senso se in realtà le foto che venivano postate erano tutte di gente che aveva appunto una forma stereotipata, riconoscibile come sbagliata e difettosa. Te mi dicevi il sintomo è sempre lo stesso: quando si parla di giudizio sui corpi altrui o sulle vite altrui, sulle storie che le altre raccontano, in questo caso a mio avviso c'è sempre un fattore di analfabetismo funzionale, gente che guarda le cose soltanto attraverso i propri occhi, proiettando le proprie storie, perciò c'era qualcuno che si sentiva offesa perché il proprio corpo lo vedeva più difettoso di quell'altro, e quindi non sanno guardare alle storie altrui, non sanno leggere le storie altrui se non attraverso i propri occhi, perciò sminuiscono, banalizzano, perché tutto deve essere in qualche modo riportato, diciamo, alla visione della storia, alla visione del disagio, così come è ritagliata da parte di alcune persone. E rientriamo in diretta per una breve pausa musicale dagli studi di Radio Città Fujiko, ma restate sintonizzati, restate con noi, perché abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare e ancora un sacco di cose che ci ha raccontato Eretica. Io non riuscivo a fermarmi oggi quando l'ho intervistata, quindi insomma ci sono ancora tante cose che dobbiamo sentire, ma prima di tutto andiamo a sentire la seconda canzone dei Garbage, che è Sherry Lips. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when it came down, why she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional. You could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe Dopo questa breve pausa musicale rientriamo in diretta. Stavamo ascoltando l'intervista ad Eretica di Abbatto i Muri e abbiamo parlato della campagna contro il body shaming che ha condotto quest'estate e del caso della ragazza dal corpo perfetto che, secondo moltissime altre partecipanti alla discussione sulla pagina, non avrebbe avuto il diritto in qualche modo di ritenersi vittima di body shaming. Ecco, quindi siamo andati avanti nella discussione con Eretica, che ci ha spiegato perché secondo lei in molti casi è più difficile riconoscere il body shaming e in che modo è legato anche a tutta una struttura della società patriarcale e anche a episodi di violenza. Violenza maschilista, cultura patriarcale e sessista, che incide molto nel rapporto con il proprio corpo da parte di tantissime persone. Quello che succede, quello che hanno raccontato per la maggior parte, è il fatto che si sentivano a disagio per il proprio corpo dopo aver subito dei traumi, molestie, essere stata al centro di bullismo, aver vissuto male il proprio essere in sovrappeso, sottopeso, normopeso, a seconda comunque di come venivano trattate nelle famiglie, a scuola, nei luoghi di lavoro. L'oggettificazione, il fatto di ridurre la persona a un corpo e quindi di giudicarla attraverso quel che il corpo rimanda alle persone che poi alla fine ti giudicano, è sicuramente non solo la causa di questi disagi, ma anche l'effetto che viene reiterato e prodotto attraverso stimoli sbagliati che appunto riguardano poi tutta la società. Ti faccio un'ultima domanda. Nel corso di questa campagna tu avevi pubblicato anche un articolo sul tuo blog che, partendo dal discorso sul corpo, poi faceva, diciamo, riferimento anche allo scoglio economico che in certi casi c'è per la cura del corpo, un divario anche economico che c'è poi dietro al rimediare ai difetti che si percepiscono. Sì, certo, perché non tutte possono andare dall'estetista ogni settimana, non tutte possono permettersi un'operazione di chirurgia plastica e non tutte possono evidentemente accedere ad alcune cure particolari che, tranne in alcune città, per cui vengono fornite attraverso la sanità, in altre città lo devi pagare, sono le cure per malattie come l'anoressia, la bulimia, l'obesità. L'essere sovrappeso a volte richiede un'operazione, ci hanno parlato di chirurgia bariatrica, cioè la riduzione dello stomaco per fare in modo che una persona mangiasse meno, così dimagrisse e quindi recuperasse alcune cose che riguardavano la propria salute magari già precaria. E tutto questo purtroppo è, diciamo, privato. Non puoi accedere se non hai un reddito preciso, non puoi accedere se non puoi acquistare le medicine tutti i giorni. Non è facile per queste donne, per esempio, accedere a uno psicologo o a uno psichiatra che le segue costantemente ogni settimana piuttosto che una volta ogni mese o una volta ogni 2 mesi, così come il Servizio Sanitario Nazionale in genere offre, e non sempre. Ci sono città in cui ci sono servizi adibiti proprio a questo, in cui appunto psichiatri e psicologi negli ospedali trattano proprio la questione dei disturbi dell'alimentazione, di altre malattie connesse che in genere sono la depressione, che è uno dei fattori scatenanti o conclusivi o conseguenziali appunto a quello che una persona vive. Ci sono molte città italiane, la maggior parte, in cui questi servizi non vengono assolutamente offerti. Quindi la questione del reddito, anche in relazione al proprio corpo, alla cura del proprio corpo, il fatto di vedersi bene o di potersi curare appunto, diventa impossibile in alcuni casi. Ecco, avevo detto un'ultima domanda, non è vero? Te ne vorrei fare ancora una. Secondo te, visto che nell'ultima domanda parlavamo del fatto che corrispondere a un certo canone di bellezza richiede anche un certo livello di ricchezza, diciamo. Però qual è secondo te la risposta che bisogna dare al body shaming? Cioè, come si può superare questo fenomeno? Cioè, più una questione di garantire più servizio sanitario o più una questione di cambiare una mentalità? Entrambe? Allora, il senso della campagna che io ho portato avanti, che continuo comunque a portare avanti, perché un sacco di persone continuano anche senza foto a raccontare dei propri disagi con il proprio corpo, dei disturbi alimentari, le depressioni, eccetera, giusto per capire, c'è una stragrande maggioranza di ragazze, di donne che sono in casa, che sono costrette, imprigionate all'interno del proprio corpo, che non hanno relazioni sociali normali, che non fanno sesso abitualmente, che hanno grandissime difficoltà nella propria vita, nell'espressione delle proprie scelte. Quindi tutto questo ovviamente ha bisogno di alcune soluzioni che devono essere ovviamente più incisive di quelle che posso suggerire io. Per quel che mi riguarda, io penso che alla risposta alla costrizione di invisibilizzazione dei corpi che non sembrano perfetti, che per la società sono sbagliati, bisogna invece rispondere con visibilità e quindi appunto con le foto, mettendo appunto in evidenza il fatto che i corpi sono quelli, non ci sono corpi perfetti e che questi corpi hanno il diritto di esserci, che ciascun corpo porta dietro una storia, la persona che ha un rapporto sbagliato con quel corpo ha molte cose da dire e molte cose potrebbe ancora fare se potesse in qualche modo uscire fuori da quella prigione. L'altra soluzione è ovviamente quella sanitaria. Se il Servizio Sanitario Nazionale non si occupa di disturbi alimentari e di depressioni e di cura del corpo in maniera ovviamente istituzionale, nel senso col pagamento del ticket, ecco, se non ci sono strutture che considerano questo genere di disturbi e di malesseri, ovviamente le persone che non hanno soldi non possono fare. Ci sono delle proposte, hanno fatto alcuni delle proposte di legge per fare censurare i siti, per esempio Proana, comportamenti o cose comunque che riguardano appunto i disturbi alimentari, piuttosto che quello, quindi che dare sempre soldi in direzione di metodi securitari e repressivi, dovrebbero in qualche modo occuparsi appunto dell'aspetto sanitario della questione. E torniamo in studio dopo queste parole molto significative di Eretica che fanno pensare molto. A me in particolare faceva pensare il discorso sulla visibilità, sul dare visibilità a corpi non stereotipati, e chi è già visibile perché famoso può fare molto per in questo senso. Mi viene da pensare a chi nel mondo musicale è riuscito a reagire al body shaming. Penso a Beth Ditto, frontwoman del gruppo musicale statunitense The Gossip, che si è spesso mostrata senza veli proprio sfidando il fat shaming, cioè lei è molto grassa e ha fatto moltissimi servizi presentandosi con il suo corpo così com'è, proprio per dare dei messaggi body positive. Sì, è un altro punto che a me faceva molto pensare di quello che diceva Eretica, era proprio sul fatto di quanto sia introiettato, no? Questo, il fatto del body shaming o più in generale dell'idea di un corpo idealizzato, che quindi sta sì nel fatto di dare visibilità solo a un certo tipo di corpo, ma poi anche nel fatto che ci sono tantissime cose, per dire, io raccontavo anche prima a Vivi, io mi ricordo di quando, per dire, mia nonna da bambina mi diceva: ma non si chiede l'età a una signora, ma non si chiede il peso a una signora, che intanto prima di tutto è alle signore che non si chiede, perché gli uomini non hanno niente di cui vergognarsi, e poi soprattutto rende quasi imbarazzante questione che poi sono, voglio dire, l'età che uno ha, il peso che uno ha, è il nostro corpo, la nostra vita, non è qualcosa di cui vergognarsi. Però io penso che alla fine tutti subiscano, se non body shaming, quantomeno la pressione di stare entro certi canoni. E fa impressione vedere quanto questa attenzione morbosa al corpo inizi già da piccoli. A me per esempio è capitato, ha fatto molta impressione sentire da un'amica che sua figlia di soli 6 anni le dice che ha il sedere troppo grosso, cioè dice alla mamma: tu mamma hai il sedere troppo grosso. Cioè pensiamo quanto questa immagine idealizzata del corpo, che poi non trova corrispondenza nella realtà, venga introiettata sin da piccoli. Sì, tra l'altro appunto in questo caso è la bambina che in qualche modo fa body shaming, ma è proprio significativo secondo me del fatto che non solo siamo tutti vittime di un'idea, perché è più facile a volte riconoscersi come vittime, no? Non solo siamo tutti vittime di un modello ideale di corpo, ma lo riproponiamo, cioè riproponiamo su tutti gli altri questo stesso giudizio nel momento in cui pensiamo: ah, ma perché si è messa questo vestito, è una taglia troppo piccola, oppure ma perché parla in questo modo, o perché si muove così. Cioè nel giudizio che diamo ogni giorno di tutte le persone con cui ci rapportiamo, anche noi facciamo la stessa cosa, nei nostri occhi che giudicano, poi ci sono gli stessi occhi giudicanti che odiamo negli altri in qualche modo. Assolutamente sì, siamo vittime e carnefici allo stesso tempo, quindi per questo è importante fermarsi a riflettere su un fenomeno come quello del body shaming, proprio per liberarci noi di queste immagini, di questi stereotipi che abbiamo introiettato e anche cercare di non proiettare sugli altri queste immagini che abbiamo, che la società, che la cultura e i media in qualche modo ci fanno introiettare. E sul tema del body shaming ce ne sarebbe da parlare ancora per ore, ma diciamo che per oggi abbiamo finito. Però c'è ancora una cosa di cui dobbiamo parlare, giusto Vivi? Sì, abbiamo una novità. Abbiamo intervistato Mattia Machiavelli, coordinatore della Falla, che scoprirete presto cos'è, perché insieme a lui inizieremo una collaborazione. Non vi dico niente, la facciamo svelare a lui. Allora, la Falla è il giornale del Cassero, LGBT Center, siamo testata giornalistica, siamo un mensile, quindi appunto usciamo una volta al mese in realtà per 10 uscite, perché abbiamo un numero estivo che comprende luglio, agosto e settembre. È quindi un giornale un po' atipico, nel senso che se uno lo apre, lo sfoglia, innanzitutto prima di sfogliarlo appunto deve aprirlo perché è piegato in mille modi, e questo dà un po' anche il segno, no, la cifra metaforica delle tante pieghe che attraversano la comunità LGBT bolognese e non. E poi sfogliandolo le persone possono vedere gli articoli che sono storti. Sono articoli ribaltati, articoli orientati secondo diversi punti cardinali, e anche questa è un'operazione allegorica, se volete, che sa significare la fatica, cioè noi abbiamo l'ambizione, ecco, possiamo metterla in questi termini, di essere un giornale scomodo. Un giornale scomodo per i contenuti, abbiamo voluto tradurre questa scomodità anche proprio in un elemento fisico, cioè la fatica fisica del leggere la Falla, che può naturalmente essere un elemento disfunzionale, però voluto in questo senso, e restituisce un po' anche il senso del nome, no? Cioè la Falla proprio come buco del sistema, come granellino piccolo, perché siamo in fondo piccole, però necessario per andare a creare un disturbo, un fastidio, accendere una lampadina che magari fino a quel momento non si era accesa. Ecco, questa è l'ambizione. Ecco, lavoriamo, in realtà siamo tutte volontarie, però ci spendiamo per questo motivo qui. Ecco, tu appunto parlavi della grafica della Falla, che tra l'altro è bellissima, c'è anche dietro un poster molto bello, dietro, esatto, ad ogni numero. Noi a questo punto presentiamo la collaborazione che faremo insieme. Noi non possiamo proporvi di registrare a testa in giù, però comunque la Falla appunto è un mensile, quindi mensilmente ci incontreremo e lo faremo ogni secondo lunedì del mese per presentare il nuovo numero della Falla. Quindi insomma ci ritroveremo a breve su queste frequenze per poi presentare il prossimo numero, che sarà quello di novembre, giusto? Ci vediamo la, esatto, prima volta. Esatto, cominciamo questa esperienza, per noi naturalmente molto significativa, per noi è molto bello poterci sperimentare su un canale diverso rispetto a quelli cui ci sperimentiamo adesso, quindi cartaceo e blog, e può essere appunto un'occasione di approfondimento molto arricchente, ecco, che può essere data, come dicevi appunto, sia dagli articoli, sia dai nostri contenuti, sia però anche dai nostri contenuti non scritti, quindi il poster, perché aprendo tutta la Falla, proprio come dicevi, c'è un poster, c'è un'immagine inedita ogni volta, e questo fa del nostro mensile un oggetto di collezione, insomma, da collezione, perché ognuno può raccogliere tutte le immagini e farne ciò che crede, ma anche quelle veicolano appunto dei contenuti precisi, quindi insomma ce n'è di carne al fuoco, ecco. E siamo rientrate in studio, a questo punto non ci resta che salutarvi e che ricordarvi che primo torneremo qui sempre sul 103.1 FM lunedì prossimo, sempre dalle 2:30 alle 3, e poi soprattutto che potete aggiungerci su Facebook, la pagina Facebook, l'ho già detto ma lo ripeto, che è Repetita Juvent, si chiama Frequenze Sui Generis, potete scriverci, potete inviarci audio, commenti, se vi vergognate a mandare un audio potete scriverci un testo e noi lo leggeremo, insomma siamo qui per voi, possiamo fare quello che volete, se avete domande, proposte per i prossimi temi, proposte musicali, basta, se volete venire a fare la puntata al posto nostro, siete benvenuti. E adesso ci salutiamo con l'ultima canzone dei Garbage, Shut Your Mouth. what they wanna see. And you could be a big star, you could go far, make a landmark. What are you believing, you smart girl? When the game love, give them what they want, what they wanna see. And you could be a big star, you could go far, make a landmark, make a shitload. Spins by with everybody moving, pissing, bitching, and everyone is shitting on the friends on the line.